Abbiamo lanciato una class action mirata verso tre in particolare corporate host, ossia property manager, ovvero agenzie che offrono servizi e gestiscono gli alloggi per conto terzi che ricavano il 30% della rendita da quegli appartamenti. Questo l'abbiamo voluto lanciare perché a Bologna non c'è bisogno di spiegare, anche quest'autunno insomma il tema della casa è stato oggetto di mobilitazione sociale anche importante. A Bologna gli Airbnb sono ancora quasi 4.000 e sono in crescita, stanno raggiungendo i livelli pre-pandemia e in Airbnb sta avvenendo anche un processo di professionalizzazione, ovvero stanno nascendo queste grandi agenzie che gestiscono centinaia e centinaia di appartamenti. A Bologna le prime tre per grandezza sono Wonderful Italy, Real Casa e Welcome to Mille Romagna e Marche. Chiaramente sono agenzie, ad esempio Wonderful Italy fa parte del portfolio di un fondo milanese, per cui capiamo bene anche che sono in realtà degli enti finanziari che usano la casa come merce per ricavarne profitto, per cui abbiamo voluto lanciare questa class action per colpire questi rantier e per supportare la campagna per la regolamentazione degli affitti brevi presentata poi a Venezia lo scorso 18 marzo, insomma con un incontro nazionale, perché ci sia un cambio di passo dalla politica e in questo senso verso la regolamentazione degli affitti brevi. Quindi non volete colpire indiscriminatamente tutti i proprietari, ma quelli che hanno grandi, cioè un numero cospicuo di immobili. Allora, a Bologna dei 3.800 appartamenti, quasi 4.000 che sono, ben il 77% sono interi appartamenti affittati su Airbnb, per cui Airbnb anche come startup alla fine è nata anche da due ragazzi che avranno bisogno di soldi sostanzialmente per pagarsi l'affitto e quindi hanno deciso di affittare il divano, il sofà, insomma, in casa loro. Da lì è diventata una multinazionale, un attore importante anche nello sviluppo urbano, però per noi non è il turismo in sé il problema o l'affitto breve in sé il problema, è la speculazione che avviene sulle dinamiche abitative nella città. È molto più redditizio affittare la seconda casa, la terza casa per i turisti facoltosi, perché in pochi giorni ricavi quello che ricaveresti in un affitto mensile a studenti e studentesse, lavoratori e lavoratrici che siano, per cui per noi è la speculazione il problema, queste grandi agenzie, i grandi proprietari anche, perché poi anche loro speculano sulle dinamiche abitative che stanno venendo in questa città. Concretamente come funziona questa class action? È molto semplice, poi ci sono anche tutte le istruzioni sui nostri social. Consiste sostanzialmente in prenotare un appartamento di una di queste tre agenzie e disdirlo entro i termini di cancellazione gratuita sul sito Airbnb. Questo l'abbiamo voluto tarare su Bologna per il 25 aprile. I termini di cancellazione gratuita sono di una settimana, per cui il nostro intento è disdire gli appartamenti perché rimangano vuoti per il aprile, che è una giornata speciale che anche Bologna, la Bologna partigiana attraverserà. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda proprio il tema della regolamentazione, insomma se ne è parlato già da tempo, il fatto di non vietare completamente ovviamente gli affitti turistici ma di limitare le grandi proprietà, però questo processo non sembra approdare dal legislatore, ecco. No, certamente il 18 marzo la presentazione della proposta di legge nazionale a Venezia, lanciato dalla campagna Alta Tensione Abitativa, l'osservatorio civico Ocio a Venezia. Lì erano presenti molte città, molti collettivi, gli amministratori delle città. Insomma, è stato un incontro molto anche largo che ha dato anche l'entità del problema che si vuole affrontare. Chiaramente il governo nazionale non credo che abbia questo tra le sue priorità, anzi anche col taglio del reddito di cittadinanza e il taglio del fondo per morosità incolpevole, chiaramente stiamo regredendo, non c'è una visione di lancio di politiche abitative, di politiche sociali, ma non ce l'aspettavamo nemmeno. Chiaramente con la pressione politica dal basso, come stiamo provando a fare e come anche varie amministrazioni stanno lanciando, era notizia di ieri che anche Milano cercherà localmente di limitare gli affitti brevi, per noi c'è speranza perché è un problema che ormai invade tutta Italia, lottando contro questi grandi proprietari, contro queste grandi agenzie, noi speriamo di ottenere anche dei risultati concreti insieme a tutti e tutti quelli gli altri che si stanno muovendo in questa direzione.